Radio 24 Reportage. Miriam, una famiglia originale, di Valentina Furlanetto. Ci tiene a distinguere subito il fatto che io non sono la sua mamma, perché così è. La questione è che stiamo tutti facendo un pezzo di strada insieme. Se io devo giudicare la mia vita, è piena di disgrazie, piena di sofferenze, ma anche piena di ricchezza. Penso che lei mi abbia educato tantissimo in tutti questi anni a guardare ai miei figli come a qualcuno che mi è affidato e che non tengo così stretto. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. In alcune culture o tradizioni, allevare i figli degli altri è una consuetudine amorevole e diffusa. Si prendono in casa dei bambini che hanno una famiglia in difficoltà, si fa un pezzo di strada assieme, poi li si lascia andare quando sono cresciuti, come è giusto che sia. Per la legge, tutto questo ha un nome: affido familiare, una pratica che coinvolge in Italia circa 15.000 minori che altrimenti resterebbero in comunità. Queste famiglie in prestito si sono riunite in un'associazione, Famiglie per l'Accoglienza. L'11 febbraio racconteranno alcune di queste storie in un documentario al Palazzo della Regione Lombardia. Sono loro che mi mettono in contatto con Miriam. Sono arrivata in questa famiglia, loro già avevano due figli. Sono arrivata con la mia mamma, che ci ha portato lì con l'assistente sociale, e mi ricordo che sono stata portata lì con dei sacchi della spazzatura pieni di roba, perché mia mamma non aveva neanche le valigie da darci per metterci entro le nostre cosine, come dire, ed è stato quasi subito una cosa, cioè eravamo contente perché avevamo la nostra camera, avevamo il nostro letto, avevamo una casa, una famiglia che era lì seduta al tavolo con noi a mangiare, cosa che comunque non che non vivevamo prima, ma non si viveva in modo sereno o comunque come normalità, per cui per noi già avere una casa curata dove c'è una persona che si prende cura era già una ricchezza. Poi ci sono tutte le altre dinamiche che si innescano in automatico. Che tipo di dinamiche? Dei rifiuti, del cercare di annientare la famiglia affidataria, perché comunque scattano quel meccanismo in cui a un certo punto, specialmente quando si è piccoli e nell'adolescenza, uno dice fa fatica ad accettare che la propria famiglia sia stata inadeguata, che la propria famiglia è una disgraziata, come dire, e tutti i problemi che sono connessi a ogni singola storia. Io ricordo tanti momenti in cui c'era proprio un voler, oltre a un trattar male, un mettere alla prova la famiglia affidataria e così anche i loro figli, perché è inconcepibile a volte che uno ti accolga come fratello o sorella senza che tu lo chieda quasi. E poi nell'adolescenza in modo proprio eccellente, perché nell'adolescenza è emerso chiaramente la sofferenza, perché comunque cominci a guardare i tuoi genitori, a capire cosa hanno combinato, a dare un nome alle cose, io dico sempre, per cui nel momento in cui uno dà il nome alle cose, deve farci i conti. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te, la mia canzone ti dice. C'è sempre stata la chiarezza che la famiglia affidataria erano sì la famiglia in più, ma erano come mamma e papà, perché il ruolo educativo era chiaro che erano come mamma e papà, per cui se inizialmente c'erano dei rifiuti, comunque delle ribellioni, nel tempo e specialmente dopo la morte di mia mamma è stato sempre più chiara questa cosa, per cui ha permesso negli anni poi di far sì che io arrivassi addirittura a maturare il desiderio di utilizzare questa mia esperienza drammatica ma contemporaneamente positiva in modo bello, così che io, sapendo quello che uno può vivere, come dire, anche in tutti gli aspetti, si trova addirittura a pensare che allora perché non metterlo in gioco, perché diventi anche un'attività di lavoro positiva, per cui perché non fare l'assistente sociale? Io so cosa vuol dire stare anche dall'altra parte, quindi diventa una risorsa, una ricchezza. Ma chi sono queste donne, questi uomini che si prendono cura dei bambini? Uno si aspetterebbe dei supereroi, delle persone con molto tempo e risorse a disposizione. Invece si trova davanti persone normali che il poco tempo e le risorse che hanno lo dividono con gli altri. Anna, ad esempio, è un'insegnante di scuola materna, ha già 3 figli suoi, vive alla periferia di Milano e assieme al marito ha deciso un giorno di prendere in affido un adolescente, Fabrizio, di 14 anni. Eravamo abbastanza impauriti dall'approccio del mondo adolescenziale, non avendolo ancora pieno tastato in casa nostra. Era un ragazzino abbastanza difficile, molto chiuso all'inizio. Devo dire invece che è stato molto bello. Paradossalmente abbiamo imparato a stare con questo ragazzo guardando come stavano i nostri figli con lui, e senza nessun tipo di preconcetto, senza nessun tipo di problema, semplicemente proponendosi così come erano fatti loro. E noi siamo andati dietro a quest'onda qua. Devo dire che lui piano piano si è lasciato andare nel tempo e la cosa ha funzionato. Dopo qualche tempo Francesco è tornato con i suoi genitori d'origine, anche se continua a tenere i rapporti con Anna e il marito, i quali nel frattempo sono nel bel mezzo di un'altra esperienza d'affido con un bambino di 6 anni, Marco. Lui fa sempre più fatica poi a mettere insieme tutti i pezzi della sua vita. E da questo punto di vista è proprio anche a volte un dolore stare davanti a lui, di fronte a lui. Dall'altra parte invece è proprio una ricchezza sul vedere come lui piano piano si affida anche a noi e come noi piano piano ci stiamo affidando a lui, i nostri figli compresi, per cui c'è proprio questo aiuto reciproco a guardarsi dentro un pezzettino di storia in comune. C'è stato un momento in cui lui ha avuto come la percezione su alcuni episodi accaduti con la sua mamma, dove è scoppiato in un pianto veramente irrefrenabile, inconsolabile, dove l'abbiamo semplicemente tenuto in braccio e lo accarezzavamo, dove continuava a dire che capiva che non poteva fidarsi completamente della sua mamma, perché a volte promette delle cose e poi non ce la fa mantenerle, eccetera. Quello è stato forse il momento più pesante, e dall'altra parte noi non si può far altro che consolarla in quel momento e essere presenti. Ma come cambiano, se cambiano, gli equilibri della famiglia quando arriva un bambino così in difficoltà? È stata abbastanza dura all'inizio, perché paradossalmente il nostro secondo, che insomma comunque non era piccolino, aveva 14 anni, 15 anni, l'aveva preso un po' di petto, un po' male, ma è durata il periodo dell'estate scorsa praticamente, dopodiché si è instaurato tra loro un rapporto bellissimo. Il nostro più piccolo invece ogni tanto ha qualche accenno, un po' di gelosia, ci ha rimesso in discussione anche come coppia, nel senso che se la certezza di quello che tiene insieme il marito e la moglie c'è, questa comunque è una cosa positiva. Incontro Marta, una bella signora che faceva l'insegnante, si dedicava al marito e ai 3 figli. Poi 16 anni fa ha sentito il bisogno di prendersi cura di qualcuno ed è arrivata Rosetta, che oggi di anni ne ha 23 e vive ancora con loro. Allora Rosetta aveva 8 anni. Ecco come Marta ricorda con emozione quell'incontro. Una bimba con dei capelli lunghi meravigliosi che arrivavano quasi fino alle caviglie, con 2 sacchettini che erano i suoi vestitini, e era molto perduta, persa. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I genitori non riuscivano a guardarci in faccia e noi non riuscivamo quindi a incrociare il loro sguardo. Subito dopo che la bimba venne con noi in affido, la mamma se ne andò di casa definitivamente per rifarsi altrove una famiglia. Poi però sono state proprio troncate anche dal giudice tutelare, per cui è stata sospesa la patria potestà. Lei ha sempre pensato a questi genitori, li ha sempre avuti davanti agli occhi, ce li ha spesso nominati, li abbiamo molto incontrati. Con la mamma è ancora più arrabbiata, sì, è più difficile, il sentimento di abbandono è più forte, quindi questo è più imperdonabile, diciamo. È molto arrabbiata anche con noi, che siamo quelli che di più le ricordano che lei a un certo punto è stata presa e accompagnata in un'altra famiglia, in un'altra situazione. Qual è il pensiero più dolce legato a Rosetta? Beh, la vicinanza di cui lei è stata capace quando è morta anche mia mamma, nel senso che era da pochi mesi morto mio papà, è mancata anche la mamma, e quando ci stavamo recando al cimitero in macchina, lei mi disse: adesso sei veramente in affido anche tu. Questo è il ricordo di condivisione più tenero, più vicino a me personalmente. Avrò cura di te, io sì che avrò cura di te. Penso che lei mi abbia educato tantissimo in tutti questi anni a guardare ai miei figli come a qualcuno che mi ha affidato e che non tengo così stretto.